provincia di Alessandria, 5 operai investiti da un tir sull'autostrada Torino-Aosta. In Iran arrestati 25 dipendenti del giornale di Moussaoui. Ieri le parole di Barack Obama contro la repressione. Il presidente americano si dice indignato per le violenze. Le banche ancora sotto accusa, c'è un problema aperto, dice il ministro Tremonti. Il presidente di Confcommercio parla di credito a due velocità, rubinetti aperti per le grandi imprese, chiusi per le piccole. Franceschini ufficializza la candidatura a segretario della PD, ma alcuni nel partito vogliono rinviare il congresso. Barigate, oggi il caso del TG1 all'esame del consiglio d'amministrazione della RAI. Malumore in Vaticano per la presa di posizione di Famiglia Cristiana. 30 arresti per una tratta di donne nigeriane sfruttate come prostitute, in manette anche due medici. Domani prima prova della maturità in Excel, un po' di Tototema, i consigli agli studenti su come trascorrere la serata. 2008, anno difficile per i musei, solo 6 fra i primi 30 d'Italia hanno aumentato il numero di visitatori. Una buona giornata da Simone Spezia ed Alessandra Tedesco. E benvenuti a questa nuova edizione del GR Extra Large, che apriamo con i dati INAIL sulle morti bianche. E sì, oggi l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ha presentato il suo rapporto annuale e un numero spicca su tutti. Chiara Di Michele, qual è questo numero? Il numero è che le morti bianche calano ai minimi dal dopoguerra. Nel 2008, per la prima volta dal 1951, gli infortuni mortali sul lavoro scendono al di sotto dei 1200 casi l'anno. I numeri tuttavia sono ancora drammatici: 1120 morti bianche e 875.000 infortuni denunciati. Incoraggiante il calo del 7% rispetto al 2007 per gli eventi mortali e del 4% per gli infortuni. Il 2008 conferma la tendenza degli ultimi 8 anni. Così il presidente dell'INAIL Sartori. I dati sono in assoluto positivi, il trend è decrescente dal 2001, abbiamo diminuito di oltre 150.000 unità gli infortuni sul lavoro, tenendo conto dell'aumento degli infortuni in itinere, che è di oltre il 66%, questo va anche detto. I dati sono positivi anche nel passaggio 2007-2008, speriamo, auspichiamo che l'anno prossimo ci sia un'ulteriore riduzione. Il nemico numero uno per i lavoratori è la strada, colpevole di oltre la metà delle morti bianche, mentre i settori più a rischio sono quelli tradizionali, la metallurgia, la lavorazione dei minerali, le costruzioni e l'agricoltura. Nonostante il miglioramento sensibile dei dati, non si deve abbassare la guardia, dice l'INAIL, che punta a costruire un sistema condiviso di prevenzione e chiede al governo più autonomia per l'istituto. È tutto, linea allo studio. Grazie Chiara Di Michele, intanto oggi arrivano altre notizie però di incidenti sul lavoro. La prima da Spinetta Marengo, provincia di Alessandria, dove un macchinario è esploso questa mattina nello stabilimento Comital. 4 lavoratori sono rimasti feriti, uno a quanto pare grave. L'azienda, controllata da Management e Capitali, con sede centrale a Volpiano, controlla i marchi Cookie, Domopac e Tonchita. E un altro incidente è avvenuto invece sulla A5 all'altezza di Arnade in Valle d'Aosta. Marco Ferrando, che cosa è successo? Buongiorno, era da poco passate le 9 del mattino quando sulla Torino Aosta, nella zona di Arnad, come dicevate, dunque siamo nell'ultimo tratto valdostano dell'autostrada, dicevamo questa mattina erano al lavoro 5 operai a bordo corsia, uno dei, come dire, tipici cantieri mobili estivi, perché c'era un furgone davanti, 4 operai che stavano tagliando l'erba ai bordi dell'asfalto. Qui un mezzo pesante, un camion frigo guidato da un autista greco, li ha investiti tutti e 5, e uno di loro purtroppo sembra essere ancora sepolto dal camion che si è ripiegato sulla carreggiata. Naturalmente sono in corso le operazioni per sollevare il mezzo pesante, però i soccorritori temono appunto che il corpo, appunto un operaio marocchino di 54 anni, sia lì sotto e si teme possa essere morto nell'impatto. Per quanto riguarda invece gli altri 4 operai, 2 sono stati trasferiti con l'elicottero all'ospedale di Aosta, ma non sono gravi, mentre gli altri 2, così come l'autista greco, hanno riportato soltanto ferite lieve. Naturalmente l'autostrada rimane chiusa in direzione Torino, il traffico è deviato sulla statale. È tutto a voi. Grazie Marco Ferrando per questi aggiornamenti. Abbiamo parlato di numeri, di dati per quanto riguarda le vittime sul lavoro, parliamo di tutt'altri numeri sull'economia, che arrivano anche oggi, e anche oggi arrivano dall'OCSE, Alessandra. Sì, per quanto riguarda l'Italia, l'economia arretrerà del 5,5% nel 2009, mentre il rapporto fra deficit e PIL sarà al 5,3% nel 2009 e al 5,8% nel 2010. Le stime dell'OCSE sono state sostanzialmente riviste al rialzo. Il peggio è stato evitato, dice l'organizzazione con riferimento alla crisi globale, ma non è il momento di rilassarsi. Altri numeri però sulla situazione italiana sono stati quelli forniti dal presidente della Confcommercio nel corso dell'assemblea che si è svolta oggi e che ha seguito per noi Andrea Viali. Andrea. Sì Simone, sono numeri, sono dati che si riferiscono ai consumi, quelli diffusi dalla Confcommercio. Il presidente dell'associazione Sangalli ha ricordato, ha detto che secondo le stime, le previsioni, il 2009 si chiuderà con consumi in calo dell'1,5% per le famiglie italiane, ma oltre ai consumi è stato il tema del credito quello centrale in questa assemblea di Confcommercio, credito per le imprese. Naturalmente ne ha parlato anche il ministro dell'economia Tremonti, ricordando quanto fatto dal governo in questo ambito. Il ministro però ha detto che c'è molto da lavorare in realtà su questo ambito, appunto, ancora. Sentiamo il ministro. Quella con le banche è una partita ancora aperta, e credo aperta da parte delle imprese, da parte delle famiglie, da parte anche del governo. Se vuoi prendere un applauso in un dibattito politico, comincia a parlare di banche, dal lato dell'economia e non dal lato delle banche. Se questo fatto è così diffuso, è così generale, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Ed è evidente che sul credito c'è ancora un problema aperto. Ecco, appunto, sulla necessità di intervenire per agevolare il credito alle imprese, soprattutto a quelle di piccole e medie dimensioni, ha insistito anche Sangalli, che naturalmente ha incalzato il governo anche su tutte le molte altre riforme di cui il Paese ha bisogno. Sentiamo il presidente di Confcommercio. L'ha ricordato il ministro, lo voglio ricordare anch'io, alle banche infatti. Noi non chiediamo certamente di rinunciare alla loro fondamentale missione di selezione del merito di credito. Chiediamo però che essa venga davvero esercitata con quella lungimiranza richiamata dal governatore Draghi nelle considerazioni finali di quest'anno. Partnership tra banche ed imprese, dicevo, per contrastare fenomeni di credito a due velocità, più veloce nei confronti di grandi gruppi ed assai meno celere per le piccole e medie imprese. Abbiamo sentito Sangalli, l'ospite più atteso oggi qui all'assemblea di Confcommercio era Silvio Berlusconi, il premier però è stato costretto a dare forfè a causa di un torcicollo, secondo quanto ha riferito il sottosegretario Letta. A sostituirlo è stato il ministro Tremonti, che abbiamo sentito. Da qui è tutto, a voi la linea. Grazie Andrea Viali. Noi adesso parliamo di Partito Democratico, perché Dario Franceschini ha ufficializzato la sua candidatura alla guida del partito in vista del congresso di ottobre, congresso che però qualcuno vorrebbe far slittare. In diretta da Montecitorio, Elisabetta Fiorito. Allora, che è stato un messaggio sul web quello di Franceschini? È stato un messaggio sul web, lui in camicia celeste, in cravatta blu, con dietro una libreria piena ovviamente di libri. Dario Franceschini scioglie così la riserva e, come era prevedibile, si candida alla guida del Partito Democratico. Diciamo che già si subdorava questa scelta all'indomani delle europee, quando il Partito Democratico non era crollato secondo i pronostici. In un messaggio video il segretario quindi annuncia la sua intenzione di portare il PD nel futuro e di non tornare indietro. Tutto ciò in vista del congresso di ottobre. Non farò accordi con i big, dice Franceschini, riferendosi probabilmente a D'Alema. Nessun accordo di palazzo o tra leader nazionali, nessun patto, nessuna garanzia per nessuno. La mia proposta organizzativa e programmatica sarà offerta direttamente alla base. Ascolterò chi ha avuto ruoli di responsabilità di governo e nella politica, ma investirò su una nuova squadra di donne e uomini giovani cresciuti nella militanza e nel buon governo del territorio. Ci saremo, promette Franceschini, quando Berlusconi sarà un triste ricordo. E allora a questo punto proprio è la sfida contro Massimo D'Alema. C'erano molti che dicevano che addirittura il vecchio segretario, il vecchio presidente del PD volesse ritornare, mentre Franceschini così lo frena e dice: costruiremo nuove alleanze per governare, discutibili subito per il confronto sulle riforme necessarie al Paese, e a concorrere contro di lui ci sarà Pierluigi Bersani, come ha già annunciato, appoggiato proprio da D'Alema. Immediata la reazione del Popolo della Libertà: per Daniele Capezzoni la ricandidatura era il classico segreto di Pulcinella, mentre da parte dell'Italia dei Valori Donati dichiara di essere disponibile a costruire nuove alleanze senza pregiudizi su un programma condiviso. Studio. Elisabetta, senti, nel frattempo è diventato politico anche un altro caso, quello del TG1, ossia la scelta del direttore Augusto Minzolini di non parlare dello scandalo delle ragazze a pagamento in casa del premier Berlusconi. Insomma, questo caso arriva oggi nel consiglio di amministrazione della RAI. È proprio così, Alessandra, è un'altra polemica e la protesta dei giornalisti RAI contro il direttore appena nominato del TG1 Augusto Minzolini. Il presidente di Rai Mazzini, Paolo Garimberti, porterà il caso in consiglio di amministrazione e Garimberti pare non abbia apprezzato l'autodifesa in video di Minzolini. Proprio per questo motivo sono ancora un'altra volta rinviate le nomine RAI che si dovevano tenere proprio in questi giorni. Da notare poi che da ieri il TG1 dà ampio spazio alla notizia, addirittura in tempo reale, ribattendo le parole del premier, quelle della Daddario. Grazie allora ad Elisabetta Fiorito. Ricordiamo che fra poco parleremo ancora del cosiddetto Barrygate per capire come sta reagendo invece la Chiesa, il mondo del Vaticano. Parliamo adesso di musei, perché solo 6 sui 30 più visitati d'Italia hanno registrato un incremento di ingressi, per gli altri un anno in perdita, emerge dal rapporto annuale del Turing. La crisi si fa sentire anche nei musei italiani. Nel 2008, rispetto all'anno prima, calano i visitatori dal 10 al 15%. A dirlo il dossier Musei edizione 2009 realizzato dal Centro Studi del Touring Club italiano. Un calo che proprio per il 2009 sarà anche più pesante. Dei 30 musei più visitati, che lo scorso anno hanno totalizzato 23 milioni di presenze, i tre in testa alla classifica sono i Musei Vaticani, gli scavi archeologici di Pompei e gli Uffizi a Firenze, visti da oltre 8 milioni di persone. Un pochino meglio la situazione per alcuni musei scientifici come la Città della Scienza a Napoli, la Città dei Bambini a Genova e il Museo Civico di Scienze Naturali di Bergamo. Massimiliano Vavassori, direttore del Centro Studi del Turing. La crisi economica ha impattato anche su questo tipo di consumi, non in modo drammatico per il momento, ma comunque ci sono delle prime avvisaglie che sono da tenere in considerazione. E quello che abbiamo analizzato poi sono i servizi presenti nei musei, quindi al di là dell'aspetto, diciamo, culturale della collezione, abbiamo posto attenzione anche ai servizi che i visitatori possono trovare quando visitano un museo in famiglia, per esempio, e questo è ancora un tema piuttosto debole rispetto ai musei stranieri, cioè c'è poca attenzione alle famiglie, per esempio. Soltanto il 50% dei primi 30 musei è dotato di una caffetteria, quindi sono problemi che vanno affrontati al più presto per rimanere competitivi a livello internazionale. Ma all'estero com'è la situazione dei musei? I grandi musei delle grandi città straniere sono comunque in tenuta o in crescita, mentre i nostri sono in leggero arretramento. Ecco, questo è il dato significativo, cioè cercare di adeguare i nostri standard anche di visita, non soltanto preoccupandosi delle collezioni, ma preoccupandosi anche dei servizi visitatori, cosa che noi purtroppo spesso non riusciamo a garantire. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. È appena stata battuta dalle agenzie una notizia fondamentale per l'automobilismo. La Formula 1 è salva. La Federazione Automobilistica Internazionale e l'Associazione dei Team Principali hanno infatti trovato un accordo sulle regole. Questo è quanto dice appunto l'ANSA. Ricordiamo che i principali team appunto della Formula 1, fra cui la stessa Ferrari, avevano minacciato di creare una sorta di campionato parallelo perché non erano d'accordo su alcune regole appunto con la Federazione Automobilistica. A questo punto pare che l'accordo ci sia. Le 13:17 minuti 3 secondi nella prima parte del GR Extra Large. Abbiamo parlato di morti sul lavoro. C'è stato un netto calo nel 2008, mai così poche le vittime dal 1951 secondo i dati INAIL, ma anche oggi si registrano nuovi incidenti sul lavoro. Poco fa, notizia di pochi secondi fa, è stato trovato morto uno degli operai investiti sull'autostrada A5 da un tir. Abbiamo parlato dell'assemblea di Confcommercio con una previsione di calo dei consumi dell'1,5% e le banche ancora sotto accusa. C'è un problema aperto sul credito, dice il ministro dell'economia Giulio Tremonti. Abbiamo parlato di politica con Dario Franceschini, che ha ufficializzato la sua candidatura a segretario del Partito Democratico per il congresso di ottobre. Ora ci occupiamo di Iran. Iran, da dove arrivano notizie sempre sulla protesta e sulla repressione dopo le elezioni. Così nel frattempo si apprende anche che ci sono stati nuovi arresti fra chi lavora nella stampa di opposizione. Tutte le ambasciate straniere sono circondate dalla milizia per fermare la gente che cerca di entrarvi, lo scrive un utente di Twitter. 25 tra giornalisti e dipendenti di un giornale dell'opposizione sono stati arrestati 2 giorni fa. Lo denuncia la France Presse, un membro della redazione. 4 giocatori della nazionale iraniana sarebbero stati sospesi dopo aver indossato un nastrino verde, simbolo dell'opposizione, prima della partita contro la Corea del Sud. Lo scrive un blogger citando la stampa iraniana. Pochi flash sulla repressione in atto a Teheran, brevi notizie non confermate che riescono ad aggirare la censura. Il pugno di ferro del regime si inasprisce. L'Ayatollah Khamenei l'aveva fatto capire nel sermone del venerdì. Mentre prima del voto l'opposizione veniva tollerata, basti pensare ai moderni dibattiti televisivi a cui hanno partecipato sia Ahmadinejad che Mousavi, oggi chi fa opposizione o è sospettato di farla è arrestato. La polizia ha dichiarato che in carcere si trovano 500 persone, ma secondo le agenzie per i diritti umani sarebbero molte di più. Mousavi è ancora libero, ma un eventuale arresto o addirittura la morte scatenerebbero una rabbia incontrollabile nella gente. La VEVAC, la polizia segreta, è attivissima sul fronte dei controlli di telefoni e siti internet. I giornalisti stranieri sono stati costretti ad andarsene, molti di quelli iraniani sono finiti in carcere. Ma se da una parte aumenta l'intolleranza, dall'altra arrivano aperture, segno che non c'è un'unica linea. La guida suprema aveva detto che le manifestazioni dovevano cessare. Dopo i morti di sabato, però, il presidente del Parlamento, il conservatore Larijani, ha chiesto che siano ascoltati coloro che mettono in dubbio il risultato ufficiale delle elezioni e ha posto in discussione implicitamente l'imparzialità del Consiglio dei Guardiani, incaricato di sovrintendere alla regolarità del voto. Cristina Balotelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, grande esperto di Iran, è tornato da poco, buongiorno. Buongiorno a voi. Alberto, ieri abbiamo sentito il discorso del presidente americano Obama, la prima forte presa di posizione da parte degli Stati Uniti. Sostanzialmente Obama ha detto rispetto alla sovranità iraniana, ma insomma ci sono dubbi sul voto. Secondo te sta cambiando la strategia americana nei confronti di Teheran? Ma diciamo che Obama ha detto una frase significativa: chi sta dalla parte della giustizia sta dalla parte giusta della storia. E con questa frase in qualche modo ha un po' rimediato ai balbettii che aveva avuto nei primi giorni della protesta, balbettii che erano stati dovuti essenzialmente al fatto che tutti i rapporti che erano stati messi sul tavolo della Casa Bianca dicevano che avrebbe vinto Ahmadinejad. Dall'altra parte, ieri Obama, dopo in qualche modo aver reso omaggio con parole anche commosse alla protesta popolare iraniana, ha in qualche modo però aggiunto qualche cosa di importante, cioè la sua volontà di tenere aperto il dialogo col governo e l'attesa di una risposta per l'apertura di un negoziato. Quindi in qualche modo ha confermato la propria linea, ma ha cambiato i toni rispetto alla protesta popolare rispetto ai giorni scorsi. Alberto, di poco fa la notizia che il Ministero dell'Interno non ha concesso l'autorizzazione per raduni di protesta che dovessero essere tenuti domani in segno di lutto per commemorare i manifestanti uccisi. Di questa mattina la notizia che 2 giorni fa 25 tra giornalisti e dipendenti del giornale d'opposizione legato a Mousavi sono stati arrestati. Che segnali sono questi da parte del regime? Beh, innanzitutto bisogna vedere le notizie, quelle vere, da quelle che poi non sono confermate. Anche prima Twitter e i blog danno notizie che non, a volte non hanno conferma. Davanti all'ambasciata non ci sono affatto code di persone che bussano per entrare, e neppure i giocatori della nazionale di calcio che avevano il nastrino verde al polso nella partita con la Corea sono stati sospesi. Ci sono invece altre notizie che sono purtroppo in linea con quella che è una tendenza che non è da oggi. L'arresto dei giornalisti purtroppo denuncia qualche cosa che era una linea già imboccata da questo governo molto prima delle elezioni. L'eccezionalità erano stati proprio i dibattiti televisivi, quelli che in qualche modo avevano dato un'aria, come dire, familiare e conosciuta a una campagna elettorale che era stata preceduta invece dal museruolo e dal bavaglio per la stampa riformista dell'opposizione. Insomma, sono però anche segni di debolezza da parte di questo regime. Ma io credo di sì, segni di nervosismo. Lo stesso Khamenei, abbiamo visto che ha detto due cose un po' differenti. Ieri ha detto che avrebbe prolungato di 5 giorni i ricorsi dei candidati per i brogli elettorali. Dall'altra parte però oggi è tornato ad ammonire la piazza con toni perentori e duri. Il governo stesso con queste applicazioni di censura e con questi arresti dà i segnali palesi di nervosismo, ma mi sembra evidente. Questo governo di Ahmadinejad, a differenza del primo, appare molto meno legittimato dalla volontà popolare e quindi teme in qualche modo reazioni. Grazie Alberto Negri anche oggi per questa analisi. Noi ringraziandoti torniamo adesso all'Italia e al cosiddetto Barigate. In diretta da Bari infatti c'è Giovanni Longo. Giovanni, allora facciamo il punto su questa inchiesta ma anche sulle reazioni che sta suscitando. Sì, buongiorno Alessandra, buongiorno Simone. Silvio Berlusconi, intervistato dal settimanale Chi, sostiene che Patrizia Daddario è manovrata da qualcuno. La 42enne barese, che ha raccontato di aver partecipato a pagamento a due feste a Palazzo Grazioli, smentisce il premier. Archiviato il botta e risposta a distanza, i finanzieri stanno lavorando a pieno ritmo per effettuare riscontri, ascoltare intercettazioni, mettere in fila gli elementi raccolti fino ad oggi. Intanto, capitolo feste a parte, a quanto pare anche a Cortina, l'attenzione degli investigatori sembra si stia concentrando sui presunti episodi di corruzione che ruotano attorno alla Tecno Hospital. Gli interessi economici del giovane imprenditore Giampaolo Tarantini si sono però spostati a Roma. Le sue intrature con uomini politici influenti avevano attirato l'attenzione anche di altri imprenditori pugliesi che tramite lui confidavano di poter concludere nuovi affari. Stamattina infine 5 ragazze bionde e appariscenti sono entrate a Palazzo di Giustizia a bordo di 3 auto oscure. Tutti hanno pensato a 9 persone che gli investigatori avrebbero dovuto ascoltare in giornata. La sindrome da Dario ha colpito ancora. Per il momento è tutto dalla Procura di Bari, a voi la linea. Grazie Giovanni. Lo scandalo che sta emergendo sta creando malumori nel mondo cattolico. Qualche giorno fa, il 19 giugno, lo ricorderete, un editoriale su Avvenire, il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana, nel quale in sostanza si chiedeva a Berlusconi di chiarire la sua posizione in tutta questa vicenda. Ora il settimanale dei Paolini, Famiglia Cristiana, parla di comportamenti indifendibili. Dice: è stato superato il limite della decenza e invita la Chiesa a parlare. Ma quali sono gli umori in Vaticano? Dalla base cattolica arrivano richieste sempre più pressanti per una presa di posizione della Chiesa sulle vicende che hanno investito il Presidente del Consiglio. La critica di Famiglia Cristiana sui silenzi delle gerarchie è il segnale che le mezze parole o gli editoriali, pur molto importanti, di Avvenire non bastano più. Nella Curia Vaticana il malumore verso Berlusconi sta crescendo, ma per il momento nessuno prende posizione per sollevare una questione morale nella vita pubblica. Anzi, in segreteria di Stato si registra malumore per la sortita di Famiglia Cristiana. Berlusconi in fondo guida il governo che più di ogni altro ha accolto le richieste vaticane e ogni mossa deve essere quindi ben meditata. Nella Chiesa italiana si ricorda che i concetti essenziali sui valori sono sempre gli stessi. In ogni caso, ci ha detto anonimamente un cardinale, si lascerà passare l'estate e una posizione chiara sarà espressa nel Consiglio permanente CEI di settembre. Carlo Marroni, GR24, Il Sole 24 Ore, Città del Vaticano. Ve l'abbiamo raccontata prima come notizia dell'ultima ora. La Federazione Automobilistica Internazionale e l'Associazione dei Team di Formula 1 sono riusciti finalmente a raggiungere un accordo. Insomma, il campionato è salvo. È così, Dario Ricci? Sì, il campionato è salvo, la notizia arriva da Parigi, doveva essere il giorno della scissione definitiva e come spesso accade invece è il giorno della pace ritrovata. Alla fine l'accordo è stato trovato, appunto nel 2010 non ci sarà nessun mondiale alternativo a quello organizzato dalla Federazione Internazionale, in quel caso sarebbe stato organizzato dalla Federazione dei Team, la FOTA. L'associazione dei team, appunto guidata dalla Ferrari e la Federazione Internazionale presieduta da Max Mosley, hanno comunicato di aver trovato un accordo sulle regole della Formula 1 2010 ed è di fatto un trionfo totale della linea tracciata dal presidente Luca di Montezemolo, presidente della Ferrari ma anche della FOTA, si correrà con le regole del 2009 e Max Mosley, in scadenza di mandato a ottobre 2009, non si ricandiderà alla presidenza della FIA. Proviamo un attimo a capire cosa può essere accaduto nelle segrete stanze di Parigi. Ebbene, probabilmente Mosley ha presentato al Consiglio Mondiale la lista degli iscritti al Mondiale 2010, che al momento conta solamente tre team, Campos, Manor e USF1. Di fatto questo sanciva il fallimento del progetto del salary cap, del limite di spesa per i budget delle scuderie per il prossimo anno. Qualcuno dei componenti del Consiglio Mondiale, probabilmente lo stesso Montezemolo, deve aver quindi messo ai voti la richiesta del ritorno alle regole 2009, di fatto sfiduciando Mosley. A quel punto l'alternativa per il presidente della FIA era dimettersi o accettare la sconfitta. Questa è la seconda ipotesi, che garantirà anche a Mosley una uscita di scena almeno dignitosa. Grazie Dario per questi aggiornamenti e anche per questo retroscena. GR Extra Large, queste le principali notizie della giornata. Morti sul lavoro, netto calo nel 2008, mai così poche le vittime dal 51, secondo i dati INAIL. Ma oggi purtroppo altri due incidenti. Un operaio ha perso la vita sull'autostrada Torino-Aosta, un ferito grave in provincia di Alessandria. In Iran arrestati 25 dipendenti del giornale di Mousavi. Confcommercio, nel 2009 giù dell'1,5% i consumi, banche ancora sotto accusa e c'è un problema aperto sul credito, dice il ministro Tremonti. Franceschini ufficializza la candidatura a segretario del PD, ma alcuni nel partito vogliono rinviare il congresso. E poi ancora altre notizie. Barrigate, oggi il caso del TG1 all'esame della CDA della Rai, ma l'umore in Vaticano per la presa di posizione di Famiglia Cristiana. 30 arresti per una tratta di donne nigeriane sfruttate come prostitute, in manette anche due medici. Formula 1, lo avete sentito poco fa, accordo fatto fra i team e la federazione, il campionato è salvo. Maturità, si parte. Domani circa 5.000 studenti affronteranno la prima prova scritta, uguale per tutti gli indirizzi. Diamo il buongiorno ad Alessandro Perissinotto, scrittore, in particolar modo autore di Gialli e docente di teoria e tecniche delle scritture all'Università di Torino. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno Perissinotto. Sentiamo prima il servizio della nostra collega su quali sono i pronostici sulle tracce dei temi e in che modo gli studenti si stanno preparando l'esame, poi naturalmente ne parleremo insieme. Non credere ai pronostici sulle tracce, non desiderare la tesina ad altri, onora la commissione, cura lo stile e ricorda, la maturità non uccide. A poche ore dalla prima prova scritta sul sito scuola.net compaiono i comandamenti per affrontare al meglio l'esame di Stato. Sono circa 500.000 gli studenti che domani mattina saranno alle prese con il tema di italiano. L'esercito dei maturandi però quest'anno ha perso per strada molti combattenti. 29.000 gli studenti che non sono stati ammessi, il 30% in più rispetto allo scorso anno. Complice la nuova regola secondo cui per sostenere l'esame è necessaria almeno la media del 6 nello scrutinio finale. Chi ce l'ha fatta invece in queste ore, c'è da scommettere, non avrà resistito alla febbre dei pronostici. Il tototema impazza in rete. Gli argomenti più gettonati: Barack Obama, nuovo presidente degli Stati Uniti, bioetica e eutanasia, crisi economica mondiale, ma anche gli anniversari. 20 anni dalla caduta del muro di Berlino, 40 dalla spedizione dell'uomo sulla Luna, 2 secoli dalla nascita di Darwin. Per l'analisi del testo in molti sono pronti a scommettere che questo sarà l'anno di Italo Svevo. Ma arrovellarsi troppo sull'esame non giova alla salute e può compromettere il rendimento, come ci spiega il professor Alberto Oliverio, psicobiologo all'Università La Sapienza. Bisogna cercare di non stressarsi sino all'ultimo minuto, perché molto spesso i ragazzi tendono così, nell'ultimo giorno soprattutto, a fare un ripasso generale frenetico. Magari il pomeriggio prima una buona corsa al parco, insomma un'attività fisica, una passeggiata veloce, aiuta senza dubbio a deconcentrarsi. Micaela Nasca, GR24, Il Sole 24 Ore. Allora Perissinotto, abbiamo sentito un po' di tototema: Obama, la crisi, Italo Svevo. Secondo lei che temi ci si può attendere? Che cosa ci possiamo attendere? E lei che temi avrebbe proposto per quest'anno? Ecco, sì, io direi che nel migliore del mondo possibile io avrei proposto, anch'io Darwin, devo dire, anzi una traccia che avrei proposto potrebbe essere proprio la modernità di Darwin nella società contemporanea. Che gli studenti in ascolto prendano appunti. Sì, purtroppo, o forse per fortuna, non ho alcun potere su questo, quindi gli studenti in ascolto tengano anche conto del mio potere assolutamente nullo. Poi, come tema letterario mi sarebbe piaciuto moltissimo un qualcosa del genere, dal giorno della civetta a Gomorra, da Sciascia Saviano, letteratura di impegno civile e mafia. Ecco. Questo piace tantissimo anche a noi, Perissinotto, devo dire. Sull'attualità pensava a Darwin? Beh, sull'attualità pensavo a Darwin, ma anche qualcosa del tipo diritto d'asilo come segno di civiltà. Ecco, anche questo è un tema di grande attualità. Naturalmente le tracce sono sempre molto più complesse di quello che possiamo dire qui in pochi minuti. Senta, per il Senato la sua maturità com'è stata? Lo chiediamo a un professore perché gli studenti sono sempre curiosi poi di sapere. Lei era andato bene? Io ero andato malissimo. Quindi c'è speranza per tutti, insomma. Sì, io frequentavo l'Istituto Tecnico Industriale e ricordo che il docente mi contestò il tema letterario che io avevo scelto e sarei pronto ancora oggi a incontrare quel commissario e a discutere, perché sono ancora convinto di aver ragione. Ottimo, benissimo. Senta, per il Sinoto, noi la ringraziamo e poi ci risentiamo domani per commentare le tracce. Senz'altro, sarà con molto piacere. E sentiremo se magari qualcuna l'abbiamo indovinata, anzi lei l'ha indovinata. Sarebbe la prima volta e sarebbe meraviglioso. Non vince niente, però insomma un minimo di soddisfazione sì. Senz'altro, in bocca al lupo a tutti gli studenti. Grazie Alessandro Perissinotto, scrittore, come dicevamo, anche docente di teorie e tecniche delle scritture all'Università di Torino, e ve l'abbiamo già anticipato, lo risentiremo anche domani per commentare le tracce effettive che saranno uscite. Quindi si parla di voti per gli studenti, noi adesso però vogliamo parlare di voti ai docenti. C'è una storia che vi vogliamo raccontare su questo, ed è una storia che arriva dal liceo Berchet di Milano, dove si trova Stefano Totolo. Stefano, di cosa si tratta? Il rito di fine anno scolastico, quello pieno di tensione, il momento in cui gli studenti si precipitano a scuola per vedere i loro voti, promozioni o bocciature, beh, quel rito qui al Berchet ha un nuovo volto, ovvero anche gli studenti hanno affisso la loro pagella e hanno giudicato i professori. Tante le promozioni, ma anche qualche bocciatura del corpo del docente. Allora, così in pratica a fine anno i ragazzi in forma anonima hanno compilato una pagella, hanno dato i voti ai loro professori e la media di questi voti è stata affissa accanto ai voti degli studenti. I voti a cosa? Le voci sono quelle della conoscenza, della spiegazione, della disponibilità dei professori e poi il voto complessivo. I genitori che sono qui venuti a vedere i tabelloni, i voti dei loro ragazzi sono d'accordo. Secondo qualche professore invece i ragazzi sono troppo immaturi per giudicare. Fatto sta che se il liceo Berchet dovesse fare scuola, anche i professori a fine anno dovrebbero stare attenti alle bocciature. È tutto, a voi. Grazie Stefano Totolo. Noi passiamo invece a Giulia Crivelli, il momento della nostra rassegna stampa internazionale. Giulia, nei giorni scorsi, nelle scorse settimane abbiamo visto Airbus un po' in difficoltà per l'incidente dell'Air France al largo del Brasile, ma pare che anche Boeing non se la passi molto bene. Del 787 è un'odissea, ce l'ha in prima pagina oggi il Wall Street Journal col titolo "La Boeing ritarda di nuovo il 787. Il 787 è stato anche battezzato il Dreamliner, cioè l'aereo dei sogni, più grande, più veloce, più rispettoso dell'ambiente, più comodo per i passeggeri, però è stato annunciato nel gennaio 2005 e le consegne avrebbero dovuto essere 2 anni dopo, e invece questo è il terzo ritardo. Credo anche sulla prima pagina del Financial Times, perché naturalmente la Boeing, come tutte le aziende del trasporto aereo, compagnie o nella parte industriale, ovviamente attraversano un momento difficile. Questo ritardo sarà, il titolo sta crollando in borsa da stamattina presto, quindi avrà delle conseguenze economiche, però il problema che la spiegazione che hanno dato per questo terzo ritardo è proprio un problema strutturale. Guarda caso la stessa giustificazione che una delle possibili giustificazioni che si stanno dando per il disastro aereo sopra l'oceano, appunto dell'Airbus che citavi tu. Quindi sicuramente è un momento in cui non si può avere dubbi minimi sulla struttura di aerei di questo genere. Giulia, poi si segnala dal Financial Times un problema che per il momento riguarda i manager, in realtà non riguarda solo loro, basta guardare le nostre caselle di posta elettronica. Ci spieghi di cosa si tratta? Sì, abbiamo sempre sentito parlare di information overload, no? Di questo eccesso di peso, di questa inondazione di informazioni, però in realtà è proprio una email overload, quella di cui parla Financial Times, come dici tu la conosciamo tutti, le nostre caselle sono piene di spam o magari anche di cose importanti, però sono piene, solo per smistarle diventa un problema. E allora c'è questo divertente intervento sul Financial Times di oggi, che però è divertente ma anche, cioè, solleva un problema serissimo, che è appunto che forse quando il messaggio è veramente importante, vogliamo farlo arrivare subito, forse ancora la soluzione migliore è alzare il telefono e magari una breve conversazione, poche parole, però siamo sicuri che il messaggio arriva e che attiriamo l'attenzione. Facciamo un appello, Giulia. Basta, le nostre mail sono sì, veramente... anche se siamo a forte rischio, perché se si dovessero ricevere tante telefonate, quante email passeremo la giornata al telefono. Giulia, passiamo a parlare molto molto brevemente di Venezia. Sì, questa è una, secondo me, un'iniziativa bellissima. Il titolo dell'International Herald Tribune è High Technology Meets High Art, quindi la grande arte incontra la tecnologia. È un articolo dedicato a questa impresa veramente di Peter Greenaway, che ha praticamente fatto una specie di resa cinematografica tecnologica della cena di Cana di Veronese a San Giorgio Maggiore a Venezia. Questo è un modo, l'aveva già fatto qui a Milano con l'ultima cena di Leonardo, è un modo per spettacolarizzare, se vogliamo, un grande esempio di arte antica, e però anche per preservarne l'originale, perché così l'originale non viene esposto e però tutti possono entrare, tra l'altro, e guardare questa performance cinematografica. Esatto, una vera e propria performance. Grazie Giulia Crivelli. Noi da questa performance cinematografica passiamo invece a parlare di televisione. Sì, di una performance televisiva, o meglio di una performance televisiva che non c'è più, perché la 7 ha deciso di non riproporre per la prossima stagione il programma Croz Italia. È stata una decisione un po' a sorpresa per il comico, che ieri è intervenuto alla conferenza stampa per la presentazione del nuovo palinsesto. Ne dovevo fare 10 normali in autunno. Ma me ne fanno fare 2, una speciale. Devo parlare molto in fretta. Se va tutto bene, vengo all'Italia nella sede della Telecom. Nel dubbio, comunque, ho registrato tutto. Mai battuta fu più azzeccata. Forse la registrazione della conferenza stampa di presentazione del palinsesto della 7 non è arrivata da Crozza in persona. Fatto sta che le sue parole erano in rete qualche ora dopo. Se non è un licenziamento vero e proprio, poco ci manca. Senza azzerare il contratto, però. Darebbe troppo nell'occhio, deve aver pensato Giovanni Stella, vicepresidente di Telecom Italia Media, il quale però forse non aveva messo in conto le risposte di Crozza. La cosa bellissima è che io in questa rete così non c'entro più un cazzo. Io sono anche felice che mi chiamino qui, perché c'erano delle voci che dicevano, no, che Berlusconi e Brunetta non mi volevano. Ma non è vero, perché anche Maroni non mi vuole. Non stentiamo a credere che il ministro Brunetta non abbia molta simpatia per la versione che Crozza ha costruito sulla sua figura. Sei ammalato, spiego. Sì. Io sono ammalato. Ah. Lui dice, buongiorno, mi fa vedere quanto è ammalato? No, non c'è a fare la spesa. Ah, bene, infingardo di un infingardo. Bisogna avere un maestro unico. Hai pagato poco? Bene, sarò un maestro unico in tutta Italia. Ho pagato molto bene. Andiamo avanti. Del resto, lo stesso ministro lo ha dichiarato in diretta, stuzzicato da Daria Bignardi all'era glaciale. Io amo la satira, quando è rivoluzionaria, quando è conservatrice no. E ridicolizza un italiano, un cittadino che cerca di far lavorare i dipendenti pubblici. Si mette dalla parte dei fannulloni. Però sarebbe da ingrati, verso Crozza, pensare che quella di Brunetta sia la parodia più riuscita. Veltroni merita almeno un pari merito. Abbiamo assistito in queste ore a un evento straordinario. A come un uomo può cambiare la storia del suo paese e del mondo intero. Senza poteri forti alle spalle, senza milioni di dollari a disposizione, ha detto yes, we can. Un uomo che, come mi ha già fatto notare Massimo D'Alema, non sono io. Grazie, Massimo. Valeria De Rosa, GR24, Il Sole 24 Ore. 13:47 minuti, 12 secondi, torniamo alla cronaca italiana. Sì, c'è stata una maxi operazione dei carabinieri del ROS coordinata dalla procura di Ancona e che ha stroncato una tratta di giovani donne dalla Nigeria. Sono state arrestate anche due medici romani che praticavano aborti clandestini per l'organizzazione criminale. Contraevano debiti fino a 60.000 euro per arrivare in Italia con la promessa di un lavoro sicuro. Poi, una volta qui, venivano costrette a prostituirsi con maltrattamenti di ogni genere, violenze, riti esoterici e minacce ai familiari nel paese d'origine. Questa è la storia di decine di ragazze nigeriane emersa nell'inchiesta della procura di Ancona, che ha stroncato una vera e propria tratta di esseri umani. 30 le ordinanze di custodia cautelare eseguite dai carabinieri del ROS in Nigeria, Italia e altri paesi europei, tra cui Spagna, Francia, Olanda, Germania, Grecia e Repubblica di San Marino. Associazione per delinquere finalizzata alla tratta di esseri umani, riduzione in schiavitù, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, i reati contestati. arrestati. Tra gli arrestati, quasi tutti nigeriani, ci sono anche due medici romani che praticavano aborti clandestini per l'organizzazione. Le vittime, dislocate in varie regioni italiane, venivano gestite dalle cosiddette madame, che riscuotevano i proventi della prostituzione per estinguere il debito contratto per il viaggio. Intimidazioni e violenze erano continue, spiega Roberto Casagrande, comandante del secondo reparto investigativo del ROS. Venivano ingaggiate nel paese di origine, dove venivano selezionate anche attraverso buchi fotografici, contraendo un debito che veniva sancito attraverso riti magico-sacrificali di tipo voodoo, che poi venivano reiterati anche in Europa e in Italia per soggiogare le vittime. Dopodiché le vittime erano costantemente sottoposte a maltrattamenti, violenze, intimidazioni che assicuravano appunto l'assoluto controllo e la riduzione in schiavitù delle stesse, e evitavano che queste potessero sottrarsi. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore. Estorsione ai danni di imprenditori e commercianti, spaccio di droga che ogni giorno può fruttare anche 170.000 euro. Queste alcune delle attività illecite gestite direttamente dal clan Giunta a Torre Annunziata, vicino Napoli. Il clan è stato decapitato all'alba di oggi con un'operazione congiunta di polizia e carabinieri. 28 le ordinanze di custodia cautelare per affiliati ed esponenti all'organizzazione criminale. E in Sicilia i carabinieri di Agrigento hanno sgominato un'organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di cocaina e droghe sintetiche. 17 persone sono state arrestate, fra loro anche Luigi Di Naro, 32 anni, assessore comunale a Racalmuto. L'inchiesta ha accertato che la droga venduta nelle sale giochi arrivava soprattutto dal Venezuela, dove alcuni agrigentini che si erano trasferiti appunto in Sud America la rivendevano ai compaesani a prezzi competitivi. E rimaniamo in Sicilia per un'altra storia di criminalità. Il pizzo in provincia di Enna, secondo gli estortori che lo chiedevano agli imprenditori, è più equo rispetto a quello che la mafia chiede nel palermitano. E questa è la curiosa teoria del pizzo onesto che emerge dalle intercettazioni effettuate nell'ambito dell'operazione Green Line, che ha portato in cella 20 persone a conclusione di un'inchiesta coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta. Fra le persone finite in cella, 8 sono accusate di essere affiliate alla famiglia mafiosa di Enna, le altre 12 di aver commesso reati volti a favorire l'organizzazione mafiosa del centro Sicilia. Il clan mafioso di Enna attualmente sarebbe composto dalle famiglie di Enna, Barrafranca, Pietro Persia, Val Guarnera e Catenanuova e sarebbe guidato da Giancarlo Amaradio, che figura fra gli arrestati di oggi assieme a 3 presunti referenti. Secondo gli investigatori, Amaradio avrebbe diretto gli affari della famiglia mafiosa tentando di dare continuità all'organizzazione smantellata da varie operazioni delle forze dell'ordine, appoggiandosi a vecchi e nuovi personaggi. Nell'ambito dell'operazione Green Line sono stati emessi anche 8 avvisi di garanzia nei confronti di altrettante persone che, a vario titolo, avrebbero agevolato l'azione dell'organizzazione mafiosa. Giampiero Casagni, GR24, Sole 24 Ore, Palermo. Prima di chiudere riepiloghiamo le principali notizie della giornata. Morti sul lavoro, netto calo nel 2008, ma è così poche le vittime dal 51 secondo i dati INAIL. Ma purtroppo oggi ci sono stati 2 incidenti. Un operaio ha perso la vita sull'autostrada Torino-Aosta, un ferito grave in provincia di Alessandria. In Iran sono stati arrestati 25 dipendenti del giornale di Mousawi. Confcommercio nel 2009, giù dell'1,5% i consumi, banche ancora sotto accusa, dice il ministro Tremonti, c'è un problema aperto sul credito. Franceschini ha ufficializzato la candidatura a segretario del PD, ma alcuni nel partito vogliono rinviare il congresso. Barry Gate, oggi il caso del TG1 all'esame della CDA della RAI, malumore intanto in Vaticano per la presa di posizione di Famiglia Cristiana. 30 arresti per una tratta di donne nigeriane sfruttate come prostitute, in manette anche 2 medici. Per la Formula 1, accordo fatto fra i team e la Federazione Automobilismo. Il campionato è dunque salvo. È tutto per questa edizione del GR Extra Large, condotta e curata da Simone Spezia e da Alessandra Tedesco, coordinata da Daniele Biacchessi e con in regia Peter Bescapè. Come sempre, se volete scriverci, l'indirizzo è extralarge@radio24.it. Se volete riascoltare la puntata o ascoltare altri contributi audio, il nostro sito www.radio24.it. Il prossimo giornale radio è alle 15, il GR Extra Large, invece torna a domani alle 13. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.